ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora. Attenzione canale 10 per chi è in ascolto. Avanti, chi è? Avanti su canale 10, chi è? Cicco canale 10. Canale 10, c'è qualcuno? Il mezzo delle gambe di tua madre. Vai, stronzo. E beh, stronzo, lo riprendi. Stronzo, lo riprendi. Fallo il mezzo delle gambe di tua madre, come sei abituato a farlo. E poi così imbecille. Oh imbecille, perché non ti fai conoscere? Oh imbecille, perché non ti fai conoscere? La vergogna n'hai? Oh dimmi! Oh imbecille, lì c'è un po' di salsiccia da prendere lì, Digli, digli, sai, vindi tu! Avanti il fischio. E beh, stronzo, non fischi più. Ah già, sei impegnato fischiando in mezzo alle gambe di tua madre, ho capito. Ciao, buonasera, Gio Maria. Come fanno? Ho acceso. Potresti c'è qualcuno. È troppo forte, sì, ti sento male. Ma meglio così, Gio Maria. La radio è troppo forte e ti sento male anche tu. Nemmeno alternato ti sento bene. E a poi che cambio radio? Prova adesso. Prova. È perché ribomba troppo, capito? E non riesco a alternarti, capito? Ma perché vado nell'altra radio, che forse è meglio, me ne vado in camera a letto. Aspetta che accendo l'altro, poi da accendo l'altro riesco a sentirti più bene, vediamo un po', un attimo. Prova adesso altro. Maria, mi senti ora? Maria? Fai il passaggio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E adesso ho messo lo squetch, ti sento più bene, là. Pappa, ma cavolo, l'ho appoggiato il cellulare, aspetta. Infatti, troppo forte, ma qualche cosa attaccata c'è. Stavo cercando il cellulare per vedere una cosa, aspetta, guarda a vedere, meglio va ora. E appena hai migliorato, appena però Io non ci posso fare niente, siamo troppo vicini, ci entro troppo forte nelle tue cose. Adesso sto pensando di abbassare un po' di potenza per vedere metterlo a 2 watt, perché sennò non riusciamo a comunicare. Infatti ho messo lo squeccio, ma poco niente riesco a capire, capito? E troppo vicini siamo, dai. Oh, altre volte ti ho sentito benissimo, oggi invece ti sento un po' tutto strano, tutto bum bum bum bum, sembri troppo forte, capito? Ma che provo a mettere, faccio una modifica a 2 watt a vedere quanto sono. Provo a vedere, non riesco a capirti, capito? Forse è colpa mia, ma non lo so. Guarda, sono sceso a 2 watt, ho fatto una modifica, com'è? Anzi che riesco a capirci, però è troppo forte sempre, capito? È troppo forte. E per quello che mi ha rivisato l'azione e le parole non son giuste, capito? Oltre a questo non posso farci niente, Gio Mario. Ho abbassato tutti i watt, ho abbassato. E adesso sono riuscito a capirti un po', dai. E vabbè, pazienza il tuo, che devo fare? Vabbè, dai, ci sentiamo a tu, buon proseguimento, ciao. Ciao, Gio Mario, ci sentiamo. Chi è? Bene che sono guasto. Chi è quel guasto? Antonio? Me. Ciao a tu. C'è un guasto da poco fa che si sente male. Chi? Ancora no, grazie a Dio. Già sto bene io. Tu sì che stai facendo lo stupido, Antonio, tu sì. Non lo so, facciamo io. Se ne scende dalla giungla, se ne scende da poco fa, ma tu eri poco fa quando ti ho detto quelle due cosettine belle. No, quelle no, me le rega, se no cazzo, ti avrei risposto, già lo sai. Ho capito. No, perché poc'anzi c'era un imbecille, c'era, che stava facendo il cretino come al solito. Infatti gli ho detto di fare la sua moglie quelle cose lì. No, quelle non ho fatto niente io, tranquillo. Non mi permetto nemmeno, già lo sai anche tu. Ok. E beh, tu, non parli. Che cappa, mi stavo mettendo il pigiama, mi stavo mettendo. Non so quanto la roba da Urbia. Ah, lavoro io tu, anche io ci hai lavorato. No, ero da mia sorella a prendere il bambino. Ah, ho capito, non pensavo che stavi lavorando in qualche concerto, facendo l'impianto, eccetera. Oh, no. Vabbè, dai. Tutto quello che fai va bene, non c'è problema, figurati. E allora, tutto il resto, tutto a posto? Tutto a posto, ad un abbio già durrendone. Ui. Ah, sì? Perché ma non mi direi che sei andato in moto, in macchina sei andato. Beh, a prendere mio figlio con la moto vado. Cioè, la macchina io. Appunto, no, strano. Mi sembrava strano, appunto. Ma è bigliato la Bioggia. Vabbè, allora la Bioggia è bigliato con la macchina, non è un problema. Anche se dà fastidio, quando piove dà fastidio e guidare. Comunque, va bene così, dai. Interessante che tutto vada alla grande. Riprendi, Antone. Aspetta che sono incasinato, cazzo, qualcosa. Da un telefono all'altro, cazzo. C'ho tre telefoni e sono diventato scemo. Aspetta un secondo. Poi mi hai versato un break. Ma anche il break se c'è stato. Tanto io non lo sentivo. Mi è sembrato che c'era stato un break. Cata, mi ha incontrato. Già da Urbia sono partito con la pioggia. Ui, cavolo, in strada. Ogni pioggia. Tu a metà al bivio di Oschiri, cioè lì ha cominciato a, cioè in quella zona, verso Sieri, Oschiri, quella zona lì ha cominciato a calare un po'. Ho capito. Vicino a Sassari dove c'era l'acqua, vicino a Sassari dove stava piovendo. Oh, stava piovendo a Sassari, nella zona, a metà strada, dai. Però tutti i 50 km me li ho fatti con l'acqua. Ho capito, sì. ma adesso già si cammina bene perché c'è la strada nuova, no? Mi sembra che l'hanno completata la strada Perugia. Sì, sì, la strada nuova, c'è un pezzo delle gallerie chiuso, cioè bisogna andare piano. Sì, sì, l'hanno quasi, l'hanno completata, l'hanno. Ma vedo troppo ci sono i cannoni puntati, bisogna stare attenti. E cioè, cosa intende per cannoni? La polizia stradale? Sì, cosa? Autovelox, mobile. Beh, quelle cose già lo sappiamo, ormai ci sono e bisogna fare attenzione, sì, se no sono multe salate anche, per cui è meglio andare molto piano, fare la velocità che decidono loro nei vari tratti di strada. Poco fa non c'era nessuno, andando un pezzettino l'ha già fatto un po' a fuoco, l'ho fatto. Un pezzettino solo, non c'avevo il bambino, ero io da solo, si è fatto toccare il 150 e più, per dargli una piccola tirata con la macchina che è sempre in femma. Una piccola tirata a 150, e vabbè, ogni tanto già si può fare, però è sempre meglio, più prudenza possibile. Stavo dicendo, che macchina hai tu? 1002. Sì, ma che marca è? Cos'è? Fiat? Non ti ho sentito tu, perché ma non stai uscendo molto bene, per la verità. Fiat. Ah, è Fiat, ho capito. E vabbè, dai, interessante andare fusato, fregatene, per il resto va bene. Bene, bene, 1002 la cilindrata abbastanza buona, dai. E con tanto di più cosa te ne fai? Non serve a niente. Poi già con 1200 riesci a raggiungere anche 150, a voglia. Quindi fai i buchi a tu. E una volta tirata non la voglio più, se non si sbagliasse pure. L'ho fatta arrivare a 170 una volta. Ma a fuoco ero, eh. Beh, certo, no, tu non è il caso, guarda. Non è il caso, intanto cosa guadagni? Cosa ci guadagni? Per arrivare due minuti prima sul posto che devi andare, no, non è il caso. Andando di massimo 100, io massimo, proprio esagerando, 90-100, quella è la velocità secondo me di crociera più adatta, più giusta da fare nelle strade di Sassari, perlomeno, cioè nelle strade della Sardegna. Lo so, in quel pezzo della 131 andando io non corro perché è molto pericoloso. Tipo cosa ne so, quel pezzo della 131 uscendo da Sassari dopo le gallerie, più di 80-90 non vado, perché è un po' pericoloso. Infatti la velocità da tenere è quella in questi tratti di strada. Le strade della Sardegna lo sappiamo che non sono molto, molto indicate per fare alta velocità, che poi non serve a niente, che te lo vado a fare alta velocità. Quando vai ad una velocità moderata va più che bene, e uno arriva tranquillo e senza nessun problema, è inutile. E una giuna di macchina che anda oltre i 200, ti puoi immaginare, è chi ci è mai arrivato, ma non a 200, ma nemmeno a 150 la giovata andrà mai, non mi serve camminare così forte, capito tu? Però rimasi bene al motore, ogni tanto dargli una tirata, li fa un bel bene, li fa, se vado a trovare il rettilineo, li fa bene al motore. Falla andare un po' con la sleghi un po' la macchina, se no si trombe. Cioè, io sono convinto che se pigli una doia, se tu vai con la velocità è drummita. Bisogna farla andare un po' per farla. Va bene lo slegamento un po', cioè, del motore. Ogni tanto però, non sempre a tavoletta. Ogni tanto. Ma non cosa vuoi che mi possa interessare, seppure se non la tiro mai, e cala di 10-15 km, casi ne affutti, una macchina che magari ti sviluppa 220 all'ora, cosa me ne affutti se perde 15 km, non me ne frega niente, tanto non ci arriverò mai a quella velocità. Te lo sto dicendo, io la velocità di crociera sempre quando vado da qualsiasi posto lontano anche, perché se puoi andare da Salvador non c'è bisogno di farla camminare nemmeno a 100, cosa devo stare camminare a fare quando in 5 minuti sono a Porto Torres. Ma anche se vado fuori, tipo che so io Lissano a poco ad esempio, cosa ando a fare a 150? Ma non c'è bisogno, quando vai a 100 o 90, 100, 90, 100 va più che bene tu. Io la penso così, non è il caso di lanciarla troppo forte la macchina, non si sa mai, ti si spacca una gomma, una cosa, non si sa mai. Anto. Ma la verità è che la mia di crociera è così, 100, 110, 120, camminando normale, capito? 100. 190, 100, però ogni tanto io gliela do una tirata che gli fa bene, secondo me. Se avessi avuto il diesel con l'antiparticolato, ve la dovete dire a fare forza, perché si intasa e ti fa un casino, e per sbloccarsi la devi dire a forza, per sbloccarsi l'antiparticolato, la devi proprio dire alla macchina. Perché sennò poi non ho, per far andare bene, capito? Perché si intasa, è maledetta, ti crea problemi quel tipo di macchina. Vabbè, tu c'hai il benzina, cioè, quindi non è un problema. Sì, benzina, io no, quello che ho io, tutte e due le macchine, tutte e due benzina sono, no, per cui no, ma soprattutto una è 1200 cilindrato, l'altra è 1600, per cui va bene perché vanno benissimo, ma ripeto, a dire la verità non sono stato mai amante della velocità, non mai mi è piaciuto correre, ma nemmeno quando ero ragazzo, nemmeno quando ero ragazzo in moto lo stesso, andavo sempre a una certa velocità abbastanza moderata, senza farlo gli giabidoni come tanti hanno fatto e continuano a fare oggi. L'ultima volta quando saranno prima di Natale passato a Cagliari, è sempre la miglia quella, sempre 90-100, senza stare chi via a tirare a rotta di collo, non c'è bisogno. Ci impiegherò 10 minuti in più, chi se ne frega quando arrivi più tranquillo, più riposato anche, perché hai meno concentrazione quando tu vai più piano, hai meno concentrazione anche, hai bisogno di meno concentrazione, rimani più rilassato. Bisogna stare attenti, con la macchina non è un gioco, non è un gioco la macchina, Giulio, una macchina talmente bella che ti puoi pure ammazzare. Appunto, è pericolosissima, a me lo dici, sono quasi 60 anni io che sto guidando macchina, ti puoi immaginare, lo so, dal 1966, valgonto, 30 anni so, 30 anni vado la patente della macchina, e prima ancora avevo la patente della moto, e ce l'ho sempre la patente della moto. Fatelo conto, dal 1966 ho la patente della macchina io, praticamente sono 59 anni, figurati se mi rubo fini gana di gurria che sa di sa velocità, ma cosa ne fai? Chiami la Sebastiglio quando guido a una zetta velocità 90-100, che mi tracuburo, che me lo fa fare? Va bene, sempre quella la velocità, 90-100, 90-100 non è le strade dove si può fare. Anche mi, non è che andi tutti i travi a che c'è velocità, no? In autostrada, meno male non c'abbiamo autostrada, se no almeno 130 dovevi farle, perché se no se vai di meno se vai molto più piano ti puoi prendere la sanzione lo stesso, perché sei un pericolo. Se vai a, cosa ne so, a 90 sei già un pericolo. Devi avere almeno una media di 100, 110 per andare bene bene. No, non c'è bisogno, non è la strada di strada, no. In autostrada, se vai fuori, continente, in autostrada, è giusto che mantenga, che tu mantieni una certa velocità per non dare fastidio agli altri, ma nelle strade di Sardegna, non avremo noi autostrade, sono al massimo una superstrada, anzi ne manco superstrada le chiamo io, la posso chiamare strada quattro corsie e basta, e sono strade da 90-100, non di più, corre di più e è da parte quasi, così tra virgolette, non credo che sia il caso, proprio guarda tu. Si chiamano extra urbane principali e poi ci sono quelle secondarie che è tipo la BDVD, poi la Trabanda Pocodorra, quelle sono secondarie. E quanto vai, bisogna fare il banda Budi, bisogna pochi metri, bisogna qualche chilometro, avere un'interruzione, c'è una rotatoria, cosa ne vai, da quando hanno fatto quella strada nuova poi sei costretto a rallentare continuamente. Prima, quando era come la prima, era pericolosissima, infatti sono successi tanti incidenti, sono successi in quella strada prima. Si poteva anche tirare un po' di più, ma oggi ogni pochi metri, ogni pochi chilometri c'è una rotonda, cosa ne fai? È pericoloso, appunto, cosa, non serve a niente. La strada che incomincia a essere meno, un po' meno pericolosa è quel tratto di strada della strada nuova per andare a Gheo, che poi non hanno mai continuato, l'hanno promesso anche quest'anno, da poco ne hanno parlato sul giornale, che proseguivano e continuavano a fare la strada a quattro corsie, così a corsie separate tra l'altro, e ancora hanno bisogno di sciglie, chissà quando è che ve la baseri, ma quante sono? Saranno una ventina di chilometri di strada dritta, così a due sensi di marcia, due corsie per ogni senso di marcia, c'è questa barriera centrale eccetera, quella un pochino incomincia a essere discreta, che poi ci sono anche degli avvallamenti, ma che la strada è fatta male, devi stare attento a certi avvallamenti, secondo quanto arrivi bigliolo. Già lo so. Notte, stiamo tornando da Cagliari, però non stavo guidando io, stavo guidando il mio collega. Catta che si furgoni Mercedes vanno, porca miseria. Adesso che non l'ha fatto Duca 190 gli ha fatto fare. Catta è poco bumpava. Ma secondo te ti sembra una cosa intelligente correre così con un furgone o con un Mercedes, anche se è un Mercedes, ma secondo me non è una cosa intelligente da fare. Io ripeto, non ho mai avuto la passione per la grande velocità, la verità, però mi metto nei panni di chi ha passione per la velocità. Secondo me non è un momento, cioè un'azione intelligente correre a quella velocità, non serve a niente. Cosa hai vinto? Non hai vinto niente, a quelle velocità se devono fare in pista, quando uno anda a fare gare in pista allora sì, puoi correre, ma quando sei sulle strade così urbane o extraurbane non è che puoi fare velocità pazzesche, no, assolutamente. Cavolo, ma vai, viaggiano quei Mercedes, perché c'è quasi 180, quasi 190 toccato in un pezzo. Viaggiando di notte, vabbè, non c'era nessuno, non c'era, però in effetti c'è un pochettino, c'è un cinque, cazzo, sono cavoli amari. Vabbè, dai, comunque, andare, non entra nessuno, Antonio, sei entrato, sì. non è rientrato Antonello. C'è qualcuno che voleva entrare? Vabbè, non vuole entrare nessuno, evidentemente non ne hanno voglia. Sì, aspetta, un attimino, sto scendendo subito. Aspetta che saluto l'amico e poi scendo, aspetta un attimino. Ma no, ho chiamato, è arrivato, mio fratello è già arrivato, giù in tavernetta c'è. E vabbè, Antonio, comunque è così, ripeto, la velocità è bella per chi piace, non ci sono dubbi, però camminare piano è sempre meglio, guarda, è sempre meglio, questo non ci sono, non si può dire di no. Ragione. Quando è troppo esagerato non andava e no. E infatti, dai, te devo lasciare. È arrivato mio fratello. È arrivato, che è salito mia figlia, mi ha chiamato, mi ha detto di scendere, che è arrivato mio fratello, Vanni. Vabbè, ci sentiamo, Anto, grazie per la chiacchieratina, scusa, non mi posso trattenere, dai. Ci sentiremo un altro momento, casomai, se coincide, alle prossime. Ciao Anto, salutoni, stammi bene, dai, ciao. Ciao, ci vediamo giù. C'è qualcuno su 10? Avanti già, ne avanti. Hola, attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Avanti. Buonasera Antonio. Buonasera, sono 2 ore avanti. Non ti sei riguardo, non stai uscendo allora. Io chiamavo ma non rispondeva nessuno, poi ce la stai uscendo. Ho capito, sto uscendo ora. Cappa, buonasera. E allora tu, come andiamo? Bene, bene, mi sto uscendo 2 watt, già mi senti lo stesso, sì. Ho dovuto abbassare perché poco fa Gio Maria non mi sentiva. Ma dormi qui? No, sono diventato da Olbia. Ah, sei solo? Col bambino. Ah, pensavo che l'avessi lasciato a sua sorella, che pagava. Vabbè, in realtà tu ti fai il viaggetto adesso. Sì. Ero più di un mese senza scenderci. Le strade l'hanno messa apposta, adesso si è preso il tuo casino. Adesso c'è il pezzo di qua, dall'uscita delle gallerie che stanno, come si dice, stanno mettendo a posto. No, io sono parlando della strada di Urbia, che prima era un cantiere, dovevi fare spostarsi da una parte all'altra, fare i giri strani. L'ho messa a posto. Ma adesso è tutta quanta dritta. Sì, sì. È meglio così. Si può camminare, ma bisogna stare attenti. Non ti rilassare, specialmente in quel discesore che c'è al tuo. Qui ti beccano. Già lo so, già. Qui c'è il coso fisso della velocità. Aia. E questo è pericoloso quella strada, che se uno una volta sono passato in terza corsia, me lo sono visto davanti. Cioè non è fisso, non ce n'è autoveloce fisso. C'è. Non c'è. Almeno che l'abbiano tolto c'era. Sto dicendo che non c'è. E comunque cammina abbiare in chibi perché è un casino. Quando andavo io a Urbia c'era l'autoveloce. Quando andavo io che abitava mio cognato, lì c'era l'autoveloce, me l'aveva detto anche lui. E stare attenti che lì c'era l'autoveloce fisso. Poi se l'hanno tolto non lo so, ma adesso non so come sia, però prima c'era. Guarda che a Urbia sono andato per mesi e mesi. Poi c'avevo anche la casa lì a Urbia d'estate. Te lo sto dicendo, non c'è più quello, non sono più omologati quelli, capito, non li possono ottenere. Ah ecco, ma comunque hanno detto che non ce n'è manco uno omologato, che tutti quelli che usano si può fare, non bisogna pagarle le multe perché non sono omologati e se fai... se ne fai causa la vinci. Già lo so. Nella zona di Cagliari ce n'è uno, bisogna stare attenti. Ma quello fisso, sì, lo so. La zona di Cagliari lo so che c'è uno fisso, però se dici che non si possono più tenere, magari glielo tolto. Sì, devono passare una certa omologazione, non è così no. No, non puoi tenerlo fisso. Poi quelle telecamerine che ci sono nei pali, lo sai perché cosa sono? sono per ti controllano la targa, vedi se tu c'hai l'assicurazione, è tutto a posto, capito? Ma quale? Quelle che ci sono in alto, anche andando a Usilo, quelle che le cammelline, io so che sono per il traffico, per il flusso del traffico. E invece a grande sorpresa ti controllano da... non controllano la velocità, però ti controllano a vedere se c'è assicurazione, se la macchina è revisionata. L'ho scoperto da poco io. Siamo contro tutti controllati, non ci possiamo muovere di un millimetro, ci controllano tutto. Se fa poco entrano anche dentro casa con le con i droni. Ma sabato mattina, alle 7:15, casi c'erano elicotteri da tutta l'area, ho alzato la testa, erano elicotteri da guerra. Perché c'era il mio ministro venuto a Sassari. Sono ritornati quelli della brigata Sassari. Erano dalle 7:15 più lunghi, sono fatti anche in rettanda, anche in operazione Lofia, perché io li ho visti verso via Nurbi, capito? L'ho visto uno verso via Nurbi, poi ho guardato bene, era uno della cosa della dei carabinieri. Sì, perché sta questa cosa in piazza di Tra. Capito. C'era questa manifestazione, c'erano questi ministri, c'erano dei capi dei militari, quelli alti in grado dello Stato, capito? Quelli lì stavano partecipando, pezzi grossi. Sei andato tu a vedere la festa della Brigata Sassi? No, non me ne può fare da meno. Non si parla così. La Brigata Sassari è un'armata che ci ha salvato a noi. Quello che, ma a me cosa vado a vedere? Gente che prende fior di quattrini e io pacche di miruguro dalla mattina alla sera. Cioè, no. Quello che tu vuoi, quello che adesso sai cosa fanno? Fanno un cavolo dalla mattina alla sera, se ne grattano. E siccome io non posso vedere queste persone qua, quindi sì, la storia, quello che vuoi, cioè se ne faccio lunghi se bummi, quello che vuoi mandare in guerra, cosa, tattariccio, perché quel parlare strano, vabbè. Quello che vuoi, però io non posso vedere gente che se le gratta e loro per fare due missioni prendono migliaia e migliaia di euro, cioè senza far nulla, ma niente mi vendi. E io ammazzendo mi sto andando a dire finché queste cose io non ci vado d'accordo. Sì, fate quello che volete, però no. Non le vedo di buon occhio. Non è come dici tu. Loro fanno esercitazioni, anche due, per fare queste missioni qua. Non è che vanno così allo sbaraglio, no? Fanno corsi, fanno esercitazioni. Non è che non fanno nulla, le fanno le cose come se le fanno. E poi rischiano soprattutto, è un grande rischio che hanno. La maggior parte di questi non fate nulla, cazzo, una massa di mandroni, lascia perdere. Sì, quello che vuoi, ma io non posso, cioè, perché io non ce l'ho il rischio, cazzo, cazzo da ricare, muoio, e chi mi caga a me. E al tu, una cosa è cadere, una cosa è farti saltare in aria con le bombe, perché se ci sono le mine in terra e non è vero, le cose saltano in aria. Ognuno ha il suo di lavoro, anche il tuo è pesante, quello che vuoi, però come era pesante il mio. Infatti io sono potuto cantapizzi. Allora già lo sai, Burundu, no, ma io non... Cioè, quello che vuoi, guarda, sì, il rischio c'è perché c'è il rischio, ma putidini che già non vesci ne assai vivi. cioè non se la vanno a rischiare molto. Sì, qualcuno è successo che è morto, ecco, però se ti va bene, se ti porti a casa un paccaccio di dinar ti porti. E così è. Ma poi non ce l'ho tanto quanto per quei poveracci che vanno lì a, come si dice, che vanno lì a fare il suo lavoro, capito? E quelli sono, i volontari sono quelli che rischiano un po' di più. Viaggio contro Ghisci, questi altri in grado che non fate di nulla da mattina alla sera. Stanno lì e prendono fior di quattrini, prendono. Avanti. Buonasera, buonasera, buonasera a te anche a... Con chi ce l'ho io? Da questa... Mi aspetta, buonasera a tutti e due. Serviva un controllo di segnale di radio come sto uscendo, dai, no? Che sto facendo una con una testa qua, in cucina. Non ho capito, sei l'amico di Sorso. Ma quale amico di Sorso? Ti ho detto che sono un radio. Di Sorso cos'è? Alto quanto osi, no? Vabbè, ma se tu non esci bene, io non posso capire, c'è QRM, quindi. Adesso ho capito che sei un radio da osi, l'ho capito. Non ti scaldare. No, mi stavo scaldando, stavo solo dicendo che avevi capito male. Ok, adesso forse esco meglio, là. Ok. Riprende, fa girare, dai. Riprende a tu. Antoine. Yeah. Ho dovuto mettere un po' più di potenza. Uranio, mi senti? Sì, sì, ti sento, ma prima ti sentivo ancora meglio. Tu mi pare che hai cambiato apparecchio, non so cosa hai fatto. Prima arrivavi molto, molto meglio, qua arrivava il primo di 5, buona, è un segnale diciamo discreto, dai. Adesso sei in passo di modulazione. Già ti sta arrivando benissimo, un radio di 5 è un segnale da 6 a con picchi a 9-10. Forse, aspetta. Attenzione Gianni. Avanti! Ok, l'autore deve essere sparito, non so, boh. Va bene, grazie al controllo, pure X per me, dai. Ok, buon proseguimento di chiacchierata. KK, ciao Lario, ci sentiamo. C'è la moto QRM, non ti sentivo prima, adesso ti sento meglio. Eccomi qua, guarda se va meglio Uranio. No, il modulatore è sempre basso, sì. Il radio è sempre basso, prima. E mi pare che c'era... Dio Maria c'era, ti ha fatto cambiare l'apparecchio e quindi hai perso tutto, dai. E prima arrivavi molto meglio, riattacca quello che avevi prima perché arrivavi benissimo qua. Perché sono in camaretto. Perché Arturo c'ha due stazioni in casa sua, una a Cavallaretto e una fuori nel salotto. Mi sa che qua ho Tibongulana 48, sto pensando di cosa calmo. Solo che sto cercando una staffa, sto cercando già, ne hai tu? No, staffa di Ala 48 non ne ho, l'ho dato tutto, c'avevo coperchi, eccetera, l'ho dato tutti quanti, li ho venduti. Li ho venduti tutti i pezzi che c'avevo della lampadata, li ho venduti. Devo buscare una staffa, mi sa che questo l'era 48 qua che è meglio. Puoi mettere qualsiasi cosa sotto per tenere. Puoi mettere un rialzo. Che avanti. Uomo Cristian. Uomo solo, metà. Laganti, no. No, sto scendo male, ma lo giro, sì. Passalo, vai. Un estremo, sempre io, qua, non ho messo da niente, ho fatto così, credo. No, è che c'ho un bel QRM, c'ho un altro QRM. Infatti io pensavo che fossi tu e poi ho detto Cristian, invece avevo ragione io di tu. Oh, che c'è il medico allora qua, insomma, ha capito. Adesso attacco la trappola che vediamo un po' se ti sento meglio. Che vuol dire sto arrivando anche basso? Antonio, Antonio, mi senti? Ti sento, dimmi. Tu mi stai arrivando basso, come va? Quanto è un'attaccata, vedrai? Avrei già attaccata anche. Mi sa che dici tu. Infatti ti sento un po' in mezzo al QRM. Cosa c'è Gabri? Oh, sta piangendo il bambino. Devo vedere cosa c'è, dai. Faccio un atto di bianco che sta protestando, non so cosa c'è. No, non ci ho capito, mi piace. Non ci ho capito. Comunque buonasera a tutti. Eugenio, vedete un po' cose. Eugenio? Allora ti ho capito. Anche io faccio fatica a capirti, capito. Faccio molta fatica a capirti. Mamma mia già, che schifo. Sembra che sia fuori frequenza. Che è successo? Non è FM, scusa. Perché l'altro giorno la bambina FM mi sono dimenticato di girare. Ah, ok, ecco, si è capito. Perfetto. E in effetti quando c'è voluto QRM è come viene andare in FM, che lì basta che abbassi lo squelcio e la telefonata. Lo so. Lo so. No, Antonio, come mai non lo sto capendo? Comunque tu adesso mi stai arrivando con lo Santiago di sera, l'anno è 4. E perché di solito non ti arrivo? Più forte. Hola, eccomi qua. Trasmissione, eccomi qua la trasmissione nuovamente. Fuggete ora, mi senti? Sì. All'inizio la più forte di già. Sì, adesso si può fare. Siamo d'ora, prendi Antonio. Calma che ti sento, chi è che chiama? Radio 6. Ehi, ti ho detto che sta arrivando bene, lascia così che va benissimo adesso. Poco fa era in camera da letto, vero? Ah, in camera da letto, allora per quello che... Vabbè, comunque da qua sta arrivando benissimo, da lì sta arrivando benissimo, ok. Bene, adesso sei un anno di 5, non è, io sapevo di 9 e 10, mi pare, se non ho visto male. Ok, va bene, dai, perfetto, non so come ti sto arrivando io lì, va bene, a te i capi per girare, dai. 8, 6, 8, Eugenio, sta parlando un ragno da Ucino, tu non lo so se lo senti, No, negativo, non ci arrivo qua, vero, proprio vero, non riesco a sentirlo. K, avanti già. K. In effetti i segnali oggi sono più bassi, di solito mi arriva a V8 oggi. Vabbè, aspetta, ma io sto facendo un po' basso, l'ho appena acceso, quindi lo so che questa cosa deve scaldare. Ah, ecco, balla, e allora dillo, se contravate è il tanto di caffè. Mi segna 3 watt quando mi piace la porta. Ma no, ti volevo chiedere, ma non ti sei sentito quel ragazzo nuovo, quello che modula da casa? Cosa vuol dire sapere? Perché fa piacere se ti leggete nuova. Marco sta dicendo, no, non l'ho più sentito, è entrato 2 o 3 volte e poi non l'ho più sentito, ma magari è di più, no, perché lavora in ospedale, capito? Quindi magari sta lavorando. Ecco, lui c'ha un cugino che era di Amatore, quindi magari col cugino ha parlato e l'ha convinto. Io lo conosco, è Marco. Sì, perché ho venduto un'antenna al cugino e sono venuti insieme a casa a prenderla, capito? Ho capito. Va bene. Antonio, riprenditela. Anzi, dile a quello di ultimo di rimodulare, se vuoi. Cavo, no, quasi arriva bene già, 8 ore. Capita. Forse porto prova se è un po' troppo distante. Quindi non ce la fa, magari scavalcare qualche ostacolo. Comunque io da Ucino, arrivavo a Porto Torres, mi pare Santiago 8, con la macchina mia tu. No, va bene. Però andavo su, dove c'è il rifugio dell'Aquila. Ma tu è un posto, quanto ho capito, è un posto basso di Ucino. quindi ha un po' di difficoltà, se no il carro da lì mi sarebbe arrivato fortissimo a salire. Ma oggi è già in alto, alto, poi ce ne basso qualche più, ma oggi è già in alto, come so. Infatti, cioè, è fatto quanto vuoi a uso, se c'è più alto. Se 600 metri a livello del mare. Cioè, non so se sia a livello del mare, però, anche se sei in una zona bassa di Usilo, sei comunque alto. Ah, Usilo sei alto. Io lo sai con chi parlavo, con la basata da Usilo, con la basata, prendi tutto, facevo di ex, di tutto e di più, io andavo sopra sopra, dove c'è il rifugio dell'Aquila, lo sai, sei mai andato in via? Sì, sì, sono stato. Comunque è un buon punto dove funziona anche. Devi trovare il punto giusto magari, però lì dove andavo io, dove c'è lo spiazzo, facevo di ex, di tutti, ho parlato con la basata come se si sparano con Sassa. E tra l'altro, Antu, era quello che aveva fatto il baracchino che stavo usando io, quello modificato, vabbè, avevo il baracchino modificato. Beh, in quei punti lì già arrivato che supera gli ostacoli. Beh, perché poi dall'alto verso il basso, è normale, sei montagna, il segnale ci guadagna. Un genio forse uno dei più apolodossi che sono dei più lontani. Sentito qua. E dalle parti Alghero arriva molto basso, capito? Anche io sono costretto per Alghero. E invece io Alghero dalla macchina, da solo sugli invidriati, parlavo con Alghero, tranquillamente. Però vabbè, con un linearetto con il 747. E l'antenna Turbo 2001, messa al centro cappotta nella striscia Omega. No, va bene. Vabbè, comunque l'impianto che avevo in macchina lo guidavo con tutti, altro. Non avevo problemi, Sassa che arrivava 9.5, 9.10 da Porto Torres. Alghero, anche Santiago 8 me l'ho dato. Adesso. La stazione fissa la carta. Io già mi difendo benino, va, già non ho problemi. Sono a posto, mi difendevo molto bene, mi difendevo. Che microfono sei usato adesso? MB4. Ma quello modificato? Come è stato il segnale Gianni? Sì, 6-7 adesso. Piano piano sto scaldando, va. Piano piano sto scaldando. 6-7 a picchi di 9. Invece no, ho messo il microfono, quando lo usavo nel furgone usciva una meraviglia con il superstar, con superstar. E poi che fine ha fatto il superstar? No, te lo volevi dire tu, infatti nuovo l'hai dato. No, quello lì l'avevo venduto e me l'avevo comprato tutto nuovo di zecca, comprato nuovo tutto dalla ditta. L'avevo venuto perché mi ha chiesto un amico, ma non perché non funzionava o che cosa, perché ho voluto fare un comodo un amico, ma l'ha chiesto e glielo dà. Quelli erano poi fatti, l'avevo preso a seconda mano, l'avevo portato tutto da... l'avevo trovato in America, l'avevo preso dall'America, era quello americano. E andava bene, era nuovo nuovo quello che mi ha dato tu. Era nuovo, perché l'avevi dato, non ti piaceva più. No, l'avevo dato perché ho rottamato il furgone, ho prestato il furgone e me l'hanno sciolto. Non ho dovuto rottamare il furgone e quello, vabbè, poi mi ero... Ah no, mi ero... avevo dato quello e poi mi sono preso 140, questo che avevo messo usando adesso. Perché non l'ho messo nel camper, che è un bel bello, un apparecchio, lo superstar è un apparecchio di lusso, vero? C'è una licenziale, quell'apparecchio che pochi apparecchi ce l'ha. È bellissimo, io sono innamorato di quel baracchino, ma perché è troppo grande per il camper, capito? Era troppo grande per il camper. Nel camper ho quello che mi ha regalato, quel Midland che mi ha regalato Marcolino, mia madre ha dato un Midland, bello e funziona bene. E vabbè, se funziona bene, hai fatto bene che ti hai messo quello, cosa ti hai messo? Amplificato. il microfono originale esce bene, mi sentono bene gli amici via di amica Rovana, perfetto. Il 3000 di Superstar era troppo grande per capire. E poi viaggiando così Carovana vi sentite tutti perché siete vicini, capito? Anzi, dovete abbassare la scoccia, se no è pacchi di dubbi. C'è qualcuno in difficoltà che ha il portatile, però adesso si sta prendendo la vedete che avevamo fatto la della Midland, quella che è senza bucare, che ci ha attaccato al vetro. Oh, ma ne stavi parlando tu, ma ne stavi parlando tu l'altra volta, non ce l'ho nemmeno presente. È una figata, è veramente una figata, è già pronta, non devi saldare neanche PL, è perfetto. Cioè l'elemento esterno che è l'antenna, diciamo, si attacca al vetro e dietro la parte interna c'è una specie di centralina che tu abiti il PL, tra per passare il filo e l'abiti al barattino, boh, si fa bucare, non devi fare niente, è una figata. E il mio amico c'è anche veramente bello. Ma come fai a attaccare il PL se c'è il vetro? No, nella parte interna c'è una centralina, una piccola centralina. Una piccola centralina, no? Come tu va lì e attacchi il PL sul fianco, attacchi il PL, capito? Sì, ho capito, fa come una tipo calamita così, da una parte e dall'altra. No già, ma come mai la calma non permatta quella parte del genere? Perché c'ho l'alimentatore acceso. Ah, capito. Cioè, è una figata. Fino a 3-4 km riesco a sentirlo, va benissimo, va veramente bene, considera che 60 cm, 60-70 cm di antenna. È una buona trovata, che così non stai a bucare niente, la puoi mettere a qualsiasi parte, sia laterale, sia sopra, davanti. Dove l'ha messa? Proprio alla fine del vetro? Sì, c'era sul lato del vetro, di davanti. È perfetta, non si nota nemmeno, è nera, cercala su internet, c'è anche la prova. Poi lo guardo, mi piace vederla. Vabbè, io quella che ho di antenna è piccola, la svuoto, c'è la magnetica, e buco la magnetica e faccio il gioco, perché è già tutto collegato. E lui mi ha regalato, perché ci ha comprato questa antenna qua, mi ha regalato una Turbo 2000, una Turbo 2001. La base americana, là, col divino americano, me l'ha regalata, ma è piazzata, è nuova. Poi come faccio a mettere nel campo per quello? Ecco, lì sono antenne per il campo, tu che c'hai a che fare con i camionisti, ti la vedi da qualche camionista, se proprio te la vuoi far fuori, intanto se non la usi cosa ne fai? No, me la tengo, non è veramente... Boh, mi salta il flash, mi incontro un altro furgone, metto il civile del furgone. Il furgone ci serve, quando vai a fare serve tutte queste cose, caricati la roba, no? Sì, vabbè, adesso già ho la macchina abbastanza capiente. E allora se ne vai? Un po' più gente, un po' più attivi sul canale. Però sarei piazzato, ma non vedi nessuno, non vedi mai nessuno, siamo rimasti tre. E che ci devo fare? Io accendo tutti i giorni, sto accendendo, chiamo, a volte non rispondo, a volte c'è qualcuno e mi accontento con l'altro progetto e parlo, e se no io qua ci ho messo un po' di soldi in queste cose qua e mi dispiace perderle. Buttateci tutto! Quello me, se mi ascoltano con chi sarei di buco. Ciao! Non so che c'è, era il computer, stavo andando un attimo in cucina. Un saluto circolare a tutti, dai. Ciao Marco. Ho detto, Eugenio stava parlando di questa antenna della Midland che si attacca al vetro senza bucare, senza nulla. Tu sei al corrente di questa antenna, la conosci? Aspetta, ho sentito Eugenio parlarne già un'altra volta, ma qual è quella che funziona attraverso il vetro? Se è quella, credo di averla vista in foto su internet, però poi non ho indagato ulteriormente. Sarebbe interessante vedere le prove. Sì, Marco lì, ciao, ben sentito, dopo tanto. Marco, è quella che funziona attraverso il vetro. È una figata, c'è un mio amico che ha il camper e esce benissimo, cioè esce veramente bene. Sì, naturalmente essendo piccola la portata, vabbè, sarà un po' inferiore alle antenne un po' tipo metro e mezzo, così due metri. Vi volevo dire, questo apparato era fermo da un po', anche questo, l'ennesimo. Come sta andando il radio? Questo è l'Intec HR5005 con il microfono KPO. Gianni, vai tu per primo. No, va benissimo Marco. Va bene, la radio presente, forte. Niente da dire Marco. È un bel appariccio. Ehi, ma chi ha i truppi, ne hai truppi, dai un po' a me. Mi sono dato una calmata, d'altronde anch'io non è che ne abbia tanta voglia di entrare, cioè quello capita. Adesso devo tornare al computer perché sto facendo roba burocratica e quindi saluto tutti. Ecco, si sarà sentito anche il cesso tirare nell'altra camera. Marco, ehi, sto facendo vino nel campo ancora, tu ricordi di quello che mi hai regalato con Mila? Ehi, funziona sempre. Una bomba, col valentino è una bomba, sta sempre andando, perfetto. Eia, quello l'avevo preso, Gianni, l'avevo preso da quel filibustiere toscano, quello di Lucca, quello che brucia le garanzie degli apparati. Quello che mi doveva mandare sempre il coso, lo scontrino, non me l'aveva mandato. Eia, quello l'ho preso da lui usato, era usato, però la verità era perfetta, è sempre andato bene, sempre limitatamente un po' rumorosetto in macchina, però un po' più di QRM del 2009, tipo friggitrice, capito? Però per il resto andava bene, la modulazione era ottima col suo mic, quindi signori, io vi ho dato la benedizione, là, devo andare, se no poi mi si fa tardi. Ciao a tutti sul canale, Gianni e Eugenio, non ho sentito altri, saluto a tutti e sentiamo, dai, vai Eugenio. Ciao. Ah, Antonio anche c'era. Ciao. Ciao Marco, sì, devo dire che c'ha sempre leggermente un inquadramento alto con baracchino, però forse è dovuto all'elettronica del campo, non so. Comunque, ma se lui ve lo sento un basso di radio. Allora, basso di radio, chi è Eugenio? No, qua è giusto, non è troppo amplificato, eccetera. Segnale è un 7,5-8. Comunque Eugenio, tutti questi apparati SMD, questi di nuova generazione, anche il President, quello piccolino che ha MFM6, sono tutti delle friggitrici, sono tutti così. Rispetto agli apparati una volta premono più QRM, soprattutto di tipo elettrico, elettronico, cellulari, tutta la mondezza elettronica che c'è in aria, e ce n'è tanta rispetto a una volta. Va bene, rinnovo i saluti e rilancio a Antonio, che mi ha salutato. Ciao Antonio, ben sentito, riprendi. Ciao Marco, ciao Antonio, ben sentito, caro, parecchio che non ti sentivo più. Ma sto facendo basso di radio? No, normale, normale, una modulazione normale, è che Gianni è sparatissimo in proporzione, però è più vicino, capito? Però non la definirei bassa o Gianni, no, bassa non la posso definire. No, qua arriva basso di radio, da contare che lui sta uscendo con le MC60, Ma sai, la distanza, per esempio a me arriva sicuramente più basso di segnale che da te, però bene o male si difende, cioè nessun problema a copiarlo, tu magari ce l'hai più aperto, non saprei, sai cos'è, ho già, che noi in locale, Bombo, io, abbiamo tutte radio magari più sparate e quindi tutte regolate il volume in base a noi, e che più lontano ovviamente sembrerà più basso, però non è basso di radio, assolutamente. Stava andando super bene, io non tocco mai niente, sempre regolato così, adesso sto uscendo più basso di radio, ma mi pare strano. Batteria questo qua, non lo so. Qua al limite prova a aumentare la, già non mi ricordo la regolazione, mic gain, l'equivalente del mic gain, da un pochino, fate le prove, va bene, io scappo, ciao a tutti, ciao, vai già. Regola il mic, c'è scritto, mandalo avanti col cursore appena con l'unica. No, l'assoluto così, sono sempre uscito bene, magari sta scaldando, insomma, magari la batteria scarica, non so, la batteria del microfono, non so, lo sempre usato così, se mi avete detto sta facendo bene, boh, basta, rimane così, non tocco niente. Come vuoi. Si può regolare, si può regolare. Se tu appena andare a mettere il cursore, diciamo, non è più forte. No, la batteria si mette solo quando tu lo stacchi da quell'apparecchio e l'attacchi a un altro apparecchio, perché lì prende la corrente dall'apparecchio, quel microfono lì. Perché sto controllando sotto, c'è un tastino. No, non arrivi male qua.